Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Quando alla Sorbona cominciai a seguire le lezioni di Dubreuil, ero decisa a tenerlo per un grand'uomo falso. Certo, era differente da tutti gli altri professori. Arrivava spettinato, sempre in ritardo di 4 o 5 minuti. Ci ispezionava un istante con i suoi grossi occhi maliziosi e poi si metteva a parlare, con un tono molto amichevole o molto aggressivo. Avevo già letto i suoi romanzi e non m'erano piaciuti. M'ero aspettata un qualche messaggio esaltante e non vi trovavo che gente qualunque, sentimenti frivoli, una quantità di cose che non mi parevano essenziali. Quanto alle sue lezioni, erano interessanti, d'accordo, ma insomma, non diceva niente di geniale. Ed era talmente sicuro di aver ragione che avevo sempre una voglia irresistibile di contraddirlo. O ero convinta anch'io che la verità fosse a sinistra. Fin dall'infanzia avevo sentito nel pensiero borghese un odore di imbecillità e di menzogna, un cattivissimo odore. E poi avevo imparato dal Vangelo che gli uomini sono tutti uguali, tutti fratelli, e a questo continuavo a crederci assolutamente. Solo che, per la mia anima così a lungo pasciuta d'assoluto, il vuoto del cielo rendeva futile qualsiasi morale, e Dubreuil si immaginava che potesse esserci una salvezza su questa terra. Nella mia prima dissertazione parlai di questo. La rivoluzione, dicevo, va bene, ma con questo? 8 giorni più tardi, restituendomi il componimento alla fine della lezione, si è allegramente burlato di me. Il mio assoluto, secondo lui, era un sogno astratto di piccola borghese incapace di guardare in faccia la realtà. Io non avevo i mezzi per tenergli testa. Lui vinceva inevitabilmente ogni colpo, ma ciò non provava niente, e glielo dissi. Riprendemmo la discussione la settimana seguente, e questa volta cercò di convincermi, non di abbattermi. Prese a parlarmi spesso dopo la lezione e a volte m'accompagnava fino a casa. Poi siamo usciti insieme il pomeriggio. La sera non parlavamo più di morale, né di politica, né d'alcun altro soggetto elevato. Mi raccontava delle storie e soprattutto mi portava a spasso. Con lui ogni cosa prendeva 1000 sensi. I volti, le voci, i vestiti della gente, un albero, un cartellone, un'insegna al neon, qualsiasi cosa. Allora ho riletto i suoi romanzi e ho capito che non li avevo capiti affatto. Dubreuil dava l'impressione di scrivere capricciosamente, per il suo solo piacere, cose del tutto gratuite. E tuttavia, a libro chiuso, ci si ritrovava sconvolti di collera, di disgusto, di rivolta. Si voleva che le cose cambiassero. Ecco perché desidero tanto che continui a scrivere. So per esperienza mia ciò che egli porta ai suoi lettori. Tra il suo pensiero politico e le sue emozioni poetiche non c'è distanza. È grazie al suo amore per la vita, se vuole che tutti gli uomini ne abbiano largamente la loro parte. Ed è grazie al suo amore per gli uomini, se tutto quanto appartiene alla loro vita lo appassiona. Rileggevo i suoi libri, lo ascoltavo, lo interrogavo. Ero così occupata che non pensavo a domandarmi perché, precisamente, gli piacesse di stare con me. Quando m'ha presa tra le braccia, una notte, in mezzo ai giardini del Carousel, ho detto scandalizzata: «Io bacerei solo un uomo che amassi». Ha risposto tranquillamente: «Ma voi m'amate». E ho subito saputo che era vero. Diventare donna nelle sue braccia m'è stata una gioia semplice. Quando il piacere mi spaventava, il suo sorriso m'ha rassicurata. Una sola ombra sul mio cuore. Le vacanze s'avvicinavano e l'idea di una separazione mi terrorizzava. Robert se ne rese conto, naturalmente. Fu per questo che mi propose di sposarci. Allora quest'idea non mi sfiorava neppure. «Ma io t'amavo», m'ha risposto Robert molto tempo più tardi. Sulle sue labbra, cosa significano precisamente queste parole? Quel che è sicuro è che il suo entusiasmo a volermi felice fu un successo. Fin lì non ero stata infelice, ma passavo una quantità di tempo a desolarmi. Imbecillità, menzogna, ingiustizia, dolore, un caos nero intorno a me. Vivere era attendere la morte durante 40 o 60 anni impaniati nel nulla. Ecco perché studiavo con tanto zelo. Non c'erano che i libri e le idee a restare in piedi. Essi soli mi sembravano reali. Grazie a Robert, le idee scesero sulla terra e la terra divenne coerente come un libro. Se avevo dubitato della vita, era stato solo perché a casa m'annoiavo e ora non m'annoiavo più. Robert aveva tratto dal caos un mondo pieno, ordinato, purificato dall'avvenire che vi si andava maturando. Quel mondo era il mio. Essere la moglie di Robert non mi bastava. Mai prima di sposarlo avevo pensato di fare una carriera di moglie. Il mestiere che faccio m'ha tentato perché non ho mai pensato che si possa portare a qualcuno una salvezza prefabbricata. Ma sono spesso delle inezie a separare gli uomini dalla propria felicità e io volevo aiutarli a sbarazzarsene. Robert m'ha incoraggiata. Su questo punto la pensa diversamente dai comunisti ortodossi. Crede che la psicanalisi possa avere un uso valido nella società borghese e che forse avrà un'utilità anche in quella senza classi. Gli è parso un lavoro appassionante, anzi, quello di ripensare la psicanalisi classica alla luce del marxismo. Ed è un fatto che la cosa m'ha appassionato. Le mie giornate erano piene quanto la terra intorno a me. Che grande fortuna, a 20 anni, ricevere il mondo dalla mano dell'uomo che si ama. Che grande fortuna occupare in questo mondo esattamente il proprio posto. Robert è riuscito anche in quest'impresa talmente difficile. Proteggermi dall'isolamento senza privarmi della solitudine. Tutto ci era comune e tuttavia io avevo le mie amicizie, i miei piaceri, il mio lavoro, le preoccupazioni mie. Potevo a mio piacere passare la notte contro la tenerezza d'una spalla o sola, come oggi, nella mia camera da ragazza. Guardo questi muri, il filo di luce sotto la porta. Quante volte ho già conosciuto questa dolcezza, addormentarmi mentre Robert lavora a portata della mia voce. Sono anni ormai che tra noi il desiderio si è consumato, ma eravamo troppo strettamente uniti perché l'unione dei corpi potesse avere una grande importanza. Rinunciandoci, non abbiamo, per così dire, perduto nulla. Potrei credere d'essere in una notte di prima della guerra. Questa stessa inquietudine che mi tiene sveglia non è nuova. Tante altre volte già l'avvenire del mondo è stato nero. Ma no, mento. Una volta, dalle crisi più inquietanti, in fondo ero sicura che ne saremmo usciti. Robert ne sarebbe uscito per forza. Il suo destino mi garantiva quello del mondo, e inversamente. Ma con questo passato dietro di noi, come fidarci ancora dell'avvenire? Diego è morto. Troppi sono morti. Lo scandalo è tornato sulla terra. La parola felicità non ha più senso. Intorno a me è di nuovo il caos. Forse il mondo ne uscirà. Ma quando? Lo sento muoversi, piano, nello studio. Legge, riflette, preparà i suoi piani. Riuscirà? E se no? Non c'è bisogno di prospettarsi il peggio. Nessuno ci ha mai divorati. Solo che, ecco, vegetiamo, portati dal caso, in una storia che non è più la nostra. Robert, ridotto a una parte di testimone passivo, cosa farà di se stesso? Quell'umanesimo che Robert ha sempre difeso, supponiamo che la rivoluzione si compia contro di esso. Cosa potrebbe fare in questo caso? Mi dice che questa situazione gli offre l'occasione che ha aspettato tutta la vita. E sia pure. Ma è anche carica del pericolo più grave che l'abbia mai minacciato. E lui lo sa. Si dice che per lui l'avvenire sarà forse una tomba, che vi cadrà senza lasciare maggior traccia di Rosa e di Diego. E forse anche peggio. Forse gli uomini di domani lo giudicheranno un retrogrado, uno sciocco, un mistificatore inutile o colpevole, uno scarto. Così, un giorno, sarà forse tentato lui stesso di vedersi con i loro occhi crudeli. Allora la sua vita finirà nella disperazione. Robert disperato sarebbe uno scandalo più intollerabile della sua stessa morte. Io voglio ben consentire alla mia morte, alla sua, non alla sua disperazione. No. Non sopporterò di svegliarmi domani e i giorni che seguiranno con questa enorme minaccia all'orizzonte. No. Ma posso ripetere 100 volte no, no e no. Non servirà a niente. Mi sveglierò sotto questa minaccia domani e i giorni che seguiranno. Una certezza. Si potrebbe almeno morirne. Ma questa paura senza fondo bisognerà viverla. Thank you. Henri spinse la porta del Bar Rouge e s'avvicinò al tavolo dove Nadine era seduta tra la Chaume e Vincent. Henri veniva spesso a passarvi un istante, e anche questa sera gli sarebbe piaciuto sedersi a parlare del più e del meno con Lambert e Vincent, guardando la gente intorno. Ma Nadine s'alzò subito. «Dove mi portate?» chiese. «Non vi piace il jazz, né di ballare?» «No». «Potremmo provare il Tropique du Concert?» «È divertente?» «Ne conoscete voi di locali divertenti?» Il suo viso si illuminò. «Ci sono dei locali che mi piacciono, dove si vedono ballare delle signore nude». «No, vi divertono?» «Oh sì, è più spassoso ai bagni turchi, ma anche i cabaret non sono male». «Per caso sareste un tantino viziosa?» disse Henri ridendo. «È possibile», rispose secca. Si sedettero chez Astarté davanti a un secchio da champagne. Davanti al bar le entraîneuse chiacchieravano. Nadine l'esaminò a lungo. Qualche coppia ballava, erano soprattutto americani con delle ragazze e una o due coppie di falsi sposi di provincia. Decise che se ne sarebbero andati dopo che le girls avessero fatto il loro numero e fu con soddisfazione che le vide finalmente venir fuori. Erano sei, in reggipetto e mutandine d'argento, con cappelli a cilindro dai colori francesi e americani. Nadine ispezionava le ragazze con uno sguardo esperto e un po' blasé. Quando furono uscite, a rinculoni, agitando in una mano le mutandine e tenendosi con l'altra il cappello tricolore contro il sesso, ella chiese: «È più importante avere una bella faccia o essere ben fatte?» «Dipende». «Da che?» «Dall'insieme e anche dai gusti». «Nell'insieme io che nota merito a gusto vostro?» Henri la considerò. «Ve lo dirò fra 3 o 4 anni, non avete ancora finito di farvi». «Non si è mai finito finché non si è morti», disse irritata. Sorrise bruscamente. «Quando siete ubriaco, diventate divertente?» «Quando sono ubriaco mi trovo molto divertente, ma con lo champagne non andrei molto lontano». «Quante coppe potete bere senza ubriacarvi?» «Una quantità». «Allora avanti». Henri si risvegliò coricato in un letto, nudo, a fianco di una donna nuda che l'aveva afferrato per i capelli e lo scuoteva. Mormorò: «Chi è là?» «Nadine, svegliati, è tardi». Aprì gli occhi. La luce era accesa. Era in una stanza sconosciuta, una stanza d'albergo. Sì, adesso ricordava anche l'atrio, la scala. Prima aveva bevuto dello champagne. La testa gli doleva. «Che è successo? Non capisco». «Il tuo champagne. C'era metà di grappa a 60 gradi», disse Nadine con una grande risata. «Hai messo della grappa nello champagne?» «Un po'. È un trucco di cui mi servo spesso con gli americani quando ho bisogno che siano ubriachi». Sorrise. «Era il solo modo per averti». «E mai avuto?» «Se si può dire». Henri si palpò la fronte. «Io non ricordo niente». «Oh, non c'era di che». Saltò dal letto, prese il pettine dalla borsa e cominciò a pettinarsi nuda davanti allo specchio. Che corpo giovane aveva! E lui aveva davvero stretto quel busto esile dalle spalle rotonde, dai seni leggeri. Ella sorprese il suo sguardo. «Non guardarmi così». Afferrò la sottoveste e l'infilò in fretta. Quando furono seduti davanti a 2 caffè nel piccolo bar che si svegliava accanto alla Gare Montparnasse, le chiese allegro: «Insomma, perché ci hai tenuto a venire a letto con me?» «Per fare conoscenza». «È sempre così che fai conoscenza tu. Dormire con qualcuno serve a rompere il ghiaccio. Dopo si sta insieme molto meglio, no?» «Il ghiaccio è rotto», disse Henri ridendo. «Ma perché volevi far conoscenza con me?» «Volevo che mi trovassi carina». «Ti trovo molto carina». Nadine lo guardò con un'aria maliziosa e imbarazzata insieme. «Vorrei che mi trovassi abbastanza carina per portarmi in Portogallo». «Ah, è per questo». Le posò una mano sul braccio. «T'ho già detto che è impossibile». «Per via di Paul? Ma visto che lei non viene, posso ben venire io». «Ma no che non puoi. A Paul dispiacerebbe moltissimo». «E tu non glielo dire». «Sarebbe una grossa bugia». E sorrise. «Tanto più che lo verrebbe a sapere». «T'è già successo di avere degli affaretti e Paul si è adattata». Henri mormorò. «Un viaggio d'un mese è un'altra cosa». «Ma al ritorno ci lasceremmo, non voglio mica portarti via, Paul», rise con insolenza. «Voglio andare in giro, è tutto». Henri esitò. «Senti», disse, «non posso prometterti niente. Ficcati in mente che non è una promessa. Ma cercherò di parlare a Paul. E se mi parrà possibile farti venire, va bene. D'accordo». Avevo 2 ore davanti a me. Avrei potuto riordinare i miei appunti, ma non mi decidevo. Certo, mi sono sempre posta una quantità di domande. Guarire è spesso mutilare, e in una società ingiusta l'equilibrio individuale che valore ha? Ma il fatto di dover inventare una risposta per ogni singolo caso mi appassionava. Il mio scopo non era di procurare ai miei malati un equilibrio sbagliato. Se cercavo di sbarazzarli delle loro chimere intime, era per renderli capaci di affrontare i veri problemi che si pongono nel mondo, e ogni volta che ci riuscivo, giudicavo di aver fatto del lavoro utile. Il compito è così vasto, richiede la collaborazione di tutti. Andai in sala da bagno. Tornai con una catinella e un mucchio di vecchi giornali che posai davanti al camino, dove blocchetti di carta pestata stavano bruciando senza entusiasmo. Mi inginocchiai e inumidii i fogli stampati. Cominciai a impastarli. Nadine mi domandò: «Hai parlato a papà di quel lavoro di segretaria?» «Non più, dall'altro ieri». Ma aggiunsi con premura: «La rivista non uscirà che in aprile, abbiamo tutto il tempo». «Ma io ho bisogno di saperlo adesso per decidere qualche cosa». Gettò un blocchetto nel fuoco. «Non capisco proprio perché sia contrario». «Lo convinceremo», dissi. «Sai cosa farei se fossi in te? Imparerei subito a scrivere a macchina». «Subito non posso», esitò. Poi aggiunse con una certa sfida: «Henri mi porta con sé in Portogallo». M'aveva preso alla sprovvista. «L'avete deciso ieri?» chiesi con una voce che nascondeva male lo scontento. «È un pezzo che l'avevo deciso», disse Nadine, ed un tratto aggressiva. «Naturalmente tu mi rimproveri? Mi rimproveri per via di Paul?» Rotolai la carta umida tra le palme. «Penso che ti prepari un dispiacere. Henri non ti ama. Non si trova nello stato d'animo di amare qualcuno». «Mentre Lambert sarebbe abbastanza stupido da sposarmi», disse con ostilità. «Io non t'ho mai spinta a sposarti, ma il fatto è che Lambert ti vuole bene». Nadine mi interruppe. «Prima di tutto non è vero che Lambert mi voglia bene. Non mi ha neppure chiesto di andare a letto con lui. E anzi, l'altra sera al veglione, quando gli ho fatto delle proposte, mi ha mandato a farmi benedire». «È che s'aspetta altro da te». «Se non gli piace, affare suo. D'altra parte capisco che dopo aver avuto una ragazza come Rosa si possa essere difficili. E ti prego di credere che me ne strafrego. Solo non venirmi a raccontare che ha una cotta per me». Andava alzando la voce. Io scossi le spalle. «Fa quel che vuoi. Io ti lascio libera. Cosa vuoi di più?» Tossicchiò, come fa sempre quando è intimidita. «Con Henri non si tratta che di un'avventura. Al ritorno ci lasciamo». «Francamente, Nadine, tu ci credi?» «Sì, ci credo», disse con una convinzione eccessiva. «Quando avrai passato un mese con Henri, vorrai tenerlo». «Niente affatto». Di nuovo i suoi occhi s'accesero di sfida. «Se vuoi saperlo, ieri sono andata a letto con lui e non mi ha fatto proprio nessun effetto». Distolsi gli occhi. «Non ci tenevo a saperlo», dissi senza mostrare il mio fastidio. «Non è una ragione. Sono sicura che al ritorno vorrai tenerlo e che lui non vorrà». «Questo resta da vedere», disse. «Non l'amo, ma lo voglio. Con lui vivrei, capisci?» «Non sa bisogno di nessuno per vivere», dissi risentita. Nadine si guardò intorno. «E tu lo chiami vivere, questo? Francamente, povera mamma, tu credi di aver vissuto? Chiacchierare con papà la metà della giornata, curare dei matti l'altra metà, la chiami vita?» La sua voce si esasperava. «Mi succede di far delle stupidaggini, non dico, ma preferirei finire in un bordello piuttosto che vivere sempre in guanti di capretto lucido. Tu non te li togli mai i guanti. Passi il tempo a dare consigli. E degli uomini cosa conosci? Del resto sono sicura che non ti guardi mai nello specchio, che non hai mai degli incubi». Era la sua tattica. Attaccarmi ogni volta che si sentiva in torto, o anche soltanto in dubbio. Vedendo che non rispondevo, se ne andò. Restai a lungo in piedi a guardare il fuoco nel camino, ripetendomi: «Non le voglio abbastanza bene». Non l'avevo desiderata. Era stato Robert a voler subito un bambino. Le tenni rancore per aver disturbato il nostro tête-à-tête. Amavo troppo Robert e non mi interessavo abbastanza a me stessa perché potessi intenerirmi nel ritrovare i suoi tratti o i miei nel viso di quella piccola intrusa. Nessuna bambina ha mai messo più accanimento nel trionfare della propria rivale nel cuore di suo padre. E mai si è rassegnata ad appartenere alla mia stessa specie. Quando le spiegai che avrebbe avuto presto le sue regole e quel che ciò significava, fracassò in terra il suo vaso preferito. Dopo la prima volta, la sua collera fu così forte che restò 18 mesi senza. Diego aveva creato tra noi un clima nuovo. Finalmente Nadine possedeva un tesoro soltanto suo. Finalmente si sentiva mia uguale. Nasceva tra noi un'amicizia. Ma poi tutto diventò peggio. Adesso tutto è peggio. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it